Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. 14ª puntata. Saltaio, fratelli, e cadde di schianto sul marciapiede, ma non sbaraccai, oh no. Se avessi sbaraccato non sarei qui a scrivere ciò che ho scritto. Pare che il salto non fosse da un'altezza sufficiente a uccidere, ma mi spezzai la schiena e i polsi e le gambe e sentii un dolore molto tamagno prima di svenire, fratelli, con le biffe stupefatte dei martini della strada che mi guardavano dall'alto. Ma prima di svenire l'occhiai chiaro che non c'era un solo martino in questo orrendo mondo che fosse dalla mia parte e che quella musica attraverso la parete era stata tipo predisposta da quelli che avrebbero dovuto essere i miei nuovi soma e che loro avevano bisogno di una trucca così per quella loro orribile politica egoista e fanfarona. Tutto questo lo pensai nella milionesima frazione di Ein Minut prima di abbandonare il mondo e il cielo e le biffe dei martini stupefatti. Il sosto dove tornai nella 6 giorni dopo una lunga pausa nera che avrebbe potuto durare 1 milione d'anni era un ospedale, tutto bianco e con quella sniffa speciale degli ospedali così acida e fredda e pulita. Queste trucche antisettiche che ci sono negli ospedali dovrebbero avere una buona sniffa cinebrivido, tipo cipolle fritte o fiori. Mi ci volle molto tempo per raccapezzare chi ero io e poi scopersi che ero tutto fasciato di bianco e che non sentivo nulla nelle mie macerie, né dolori, né sensazioni, né nulla di nulla. Avevo delle bende tutto intorno al planetario e dei pezzettini di stoffa appiccicati sulla biffa. Eppure le granfie erano tutte bendate, con delle asticciole fissate alle dita, come si fa per i fiori per farli crescere diritti. E le mie povere putrelle erano tutte irrigidite, e c'era della salsa rossa che gocciolava da un vaso capovolto e mi si infilava nel braccio destro vicino alla mestola. Ma io non sentivo nulla, fratelli miei. C'era un'infermiera seduta accanto al letto, e stava leggendo qualche libro tutto stampato fitto e si locchiava che era un romanzo per via che c'erano un sacco di virgolette e lei faceva ah col respiro mentre lo leggeva. Così pensai che doveva essere una storia sul vecchio va e vieni. Era una quaglia proprio cinebrivido questa infermiera, con un truglio molto rosso e delle ciglia lunghe e sotto l'uniforme si locchiavano dei tuberi cinebrivido. Così io le dissi: «Come la va, sorellina? Col migno soma, dee, sotto le coltri vieni!» Ma le mottate non vennero fuori per niente cinebrivido, dato che avevo il truglio tipo paralizzato, e con la slappa sentii anche che qualcuno dei miei zughi non c'era più. Ma questa infermiera fece un salto e lasciò cadere il libro e disse: «Oh, ha ripreso coscienza!» Aveva una bella ciangotta altisuono per essere una migna mammola come lei, e cercai di dirglielo, ma le mottate mi vennero fuori tipo «ar». Lei pistonò via e mi lasciò tutto solicello, e ora potei locchiare che mi trovavo in una migna cameretta e non in una di quelle lunghe corsie dove ero stato quando ero un piccolo malcico, così pieno di bigi poldi catarrosi che volevi solo guarire e pistonar via più presto possibile. Allora avevo avuto una trucca tipo difterite, fratelli miei. Adesso era come se non ce la facessi a star cosciente, perché subito mi riaddormentai, tipo molto guizzo. Ma dopo un minuto o due mi parve che questa quaglia infermiera fosse tornata, portandosi dietro dei martini in bianco che mi locchiavano tutti seri e facevano Ed ero certo che tra loro c'era pure il vecchio salmiere della prista che faceva «Oh, figlio mio», soffiandomi addosso una sniffa rancida di whisky e poi disse «Io non ci sono stato, oh no, non ho potuto sottoscrivere ciò che quei lezzoni vogliono fare agli altri poveri remigi». Così me ne sono andato a tener prediche e sermoni su questa faccenda, mio diletto figlio in GC. Più tardi mi svegliai di nuovo e chi mi vidi accanto al letto se non quei 3 del flat da dove mi ero buttato di sotto, e cioè D.B. da Silva e Coso Cosino Rubinstein e Z. Dolin. «Amico», stava dicendo uno di questi martini, ma non riuscivo a locchiare o zeccare quale. «Caro amico», stava dicendo questa ciangotta, «la gente è furiosa e indignata. Quei vanagloriosi mascalzoni hanno perso ogni probabilità di essere rieletti, per sempre. Tu hai fatto molto per la libertà. Per voi lezioni politiche sarebbe stato ancora meglio se fossi morto, non è vero? Siete dei soma falsi e infidi. Ma tutto quello che venne fuori fu ar, ar, ar. Poi mi parve che uno di questi tre tirasse fuori un mucchio di ritagli di gazzette e riuscì a locchiare un'orribile foto di me, tutto salsoso, sopra una barella. E mi sembrò di ricordare tutto un gran scoppiare di luci che dovevano essere i fotografi. Con un occhio riuscivo anche a leggere i titoli che sembrava tremassero nella granfia di questo martino, tipo «Ragazzo vittima del piano di riforma criminale» e «Governo assassino». E poi c'era la foto di un martino che mi pareva di conoscere e il titolo era «Via, via, via!» e credo fosse il ministro degli interni o esterni. Poi la quaglia infermiera disse «Non dovreste citarlo in questo modo, non si deve agitare, adesso vi faccio andare via». Io cercai di dire «Via, via, via!» ma era di nuovo «Ar, ar, ar!» Comunque, questi poldi politici se ne andarono e me ne andai anch'io, ma tornai in orbita, tornai nel gran buio acceso ogni tanto da sogni, che non sapevo se erano sogni o no, fratelli miei. Per esempio, avevo questa idea che tutte le mie macerie venissero svuotate di roba, tipo acqua sporca, e poi venissero riempite di nuovo di acqua pulita. E poi c'erano dei bei sogni cinebrivido, come quello d'essere in qualche auto che avevo sgaraffato e di guidare su e giù per il mondo, tutto sull'icello, mettendo sotto la grega e sentendola scricciare che moriva, e in me non c'era né dolore né nausea. E c'erano anche dei sogni in cui facevo il vecchio vaivieni con le mammole, buttandole giù per terra e sforzandole, con tutti intorno che battevano le granfie e si divertivano da scardinati. E poi mi risvegliai di nuovo, e c'erano il mio P e la mia M venuti a locchiare il loro figlio malato, e la M belava proprio cinebrivido. Ora io potevo sprolare molto meglio, così riuscii a dire «Bene, bene, bene, bene, bene, che capita?» «E cosa vi fa credere d'essere i benvenuti?» Il papà disse, tipo vergognandosi, «Eri sul giornale, figliolo. Diceva che ti avevano fatto un grave torto. Diceva che il governo ti aveva spinto a farti fuori. E in un certo modo è anche colpa nostra, figliolo». E la mia mamma continuava a far «Bah, ah, ah, ah, con una faccia proprio brutta e anche friggibuco. Così dissi «E come sta il caro Joe, il nuovo figlioletto vostro?» «Confido e prego che prospero sia e buona salute goda». La mia mamma disse «Oh, Alex, Alex, oh, oh, oh, oh, oh». Il papà disse «È accaduto un fatto increscioso. Si è messo nei pasticci con la polizia e la polizia l'ha pestato». «Davvero?» dissi. «Davvero? Un martino tanto per bene. Sono sbalordito». «Si stava facendo i fatti suoi», disse il mio P, «e la polizia gli ha detto di circolare. Stava fermo a un angolo ad aspettare la sua ragazza, capisci? E loro gli hanno detto di muoversi e lui ha detto che aveva tutti i diritti di star lì e allora gli sono saltati addosso e l'hanno picchiato brutalmente». «Terribile», dissi, «proprio terribile. E adesso dov'è il povero ragazzo?» «Oh, oh, oh, oh», belò la mia mamma, «tornato a casa». «Eh sì», disse papà, «è tornato al suo paese per ristabilirsi e il lavoro che aveva qui l'hanno dovuto dare a qualcun altro». «Così», dissi, «adesso mi vorreste di nuovo con voi e sperate che le cose tornino come prima». «Eh sì, figliolo», disse il mio papà, «ti prego, figliolo». «Ci penserò», dissi, «ci farò sopra un pensierino». «Oh, oh, oh, oh», fece la mia mamma. «Achetati», dissi, «o te lo do io un motivo serio per belare e scricciare, ti faccio ingoiare gli zughi, ti faccio». E, oh fratelli, dire questo mi fece sentire un piccolo poco meglio, come se una nuova salsa mi scorresse per tutte le macerie. Era qualcosa che mi dava da pensare. Era come se per stare meglio dovessi diventare più cattivo. «Questo non è il modo di parlare a tua madre, figliolo», disse il papà. «Dopotutto, lei ti ha messo al mondo». «Sì», dissi, «in un bel mondo lezzoso e bugarone mi ha messo». Strinsi i fari come sopraffatto dal dolore e dissi «Ora andate via. Quanto a tornare con voi ci penserò. Ma le cose dovranno andare molto diversamente». «Sì, figliolo», disse il mio P, «come vorrai». «Dovrete stabilire una volta per tutte?» dissi, chi è che comanda in casa? Oh, oh, oh, oh, oh, continuò la M. Va bene, figliolo, disse il papà, faremo come vorrai tu. Pensa solo a guarire. Quando se ne furono andati, me ne stetti lì tranquillo a pensare a diverse trucche, come se delle immagini mi passassero una dopo l'altra attraverso il planetario, e quando la quaglia infermiera tornò ad aggiustarmi un po' il letto, io le dissi: «Da quanto è che sono qui?» «Circa una settimana», disse lei. «E cosa mi hanno fatto?» «Beh», lei disse, «eri tutto rotto e ammaccato, avevi la commozione cerebrale e avevi perso un sacco di sangue. Dovevano sistemarti un pochino, non ti pare?» «Ma», dissi io, «nessuno mi ha fatto qualcosa al planetario? Voglio dire, qualcuno ha forse trafficato col mio cervello cose del genere?» «Qualsiasi cosa abbiano fatto», disse lei, «l'avranno fatto a fin di bene». Ma un paio di giorni più tardi entrarono un paio di dottori, tutti e due piuttosto giovani e con dei sorrisi tipo miele, e si erano portati dietro un libro di figure. Uno di loro disse: «Vogliamo che tu dia un'occhiata a queste e ci dica cosa ti fanno venire in mente, d'accordo?» «Che capita?» «O piccoli Soma?» dissi. «Quale nuova idea scardinata nella mente covate?» Così fecero tutti e due una gufatina tipo imbarazzata e poi si sedettero di qua e di là del letto e aprirono questo libro. Sulla prima pagina c'era una foto di un nido d'uccelli pieno d'uova. «Sì?» disse uno di questi martini dottori. «Un nido d'uccelli», dissi, «pieno d'uova. Quant'è carino!» «E cosa ti piacerebbe farne?» disse l'altro. «Oh!» dissi, «spiaccicarle! Pigliarle tutte e tirarle contro un muro, tipo, o buttarle giù da una roccia o qualcosa, e poi locchiarle tutte spiaccicate cinebrivido!» «Bene, bene!» dissero tutti e due, e poi voltarono la pagina. Era la figura di uno di quei tamagni uccelli chiamati pavoni, con la coda piena di colori e tutta spalancata in quel modo borrioso. «Sì?» disse uno di questi martini. «Mi piacerebbe», dissi, «strappargli tutte le penne della coda e snicchiarlo scricciare da scardinato. Non mi va quell'aria spocchiosa». «Bene», dissero tutte e due. «Bene, bene, bene». E continuarono a voltare le pagine. C'erano delle foto di mammole cinebrivido. E io dissi che mi sarebbe piaciuto fargli il vecchio va e vieni con un sacco d'ultraviolenza. C'erano anche delle figure di martini che ricevevano lo stivale in piena biffa e un fiume di salsa dappertutto, e io dissi che mi sarebbe piaciuto farglielo anch'io. E c'era la figura del vecchio Soma spalandrato del salmiere della prigione che si portava la sua croce su per una salita, e io dissi che mi sarebbe piaciuto avere martello e chiodi. «Bene, bene, bene». Io dissi: «Di che si tratta?» «Ipnopedia», disse uno dei martini. «Ho una mottata del genere. Pare che tu sia guarito». «Guarito?» dissi. «Legato come un salame su questo letto e voi dite guarito? Baciatemi le bacche se son guarito». «Aspetta», disse l'altro. «Vedrai che non ci vuole molto». Così aspettavo e mi sentivo sempre meglio, oh fratelli, masticando coccovetti e trince di toast e glutando tamagne tazzone di cià al latte. E poi un giorno mi dissero che stavo per ricevere una visita molto, molto, molto importante. «Chi?» dissi mentre mi aggiustavo il letto e mi pettinavo il mio bel criname, dato che ora non avevo più il planetario bendato e mi stavano ricrescendo i capelli. «Vedrai, vedrai», dissero. E infatti vidi. Alle 2:30 del pomeriggio c'erano un mucchio di fotografi e gazzettieri con taccuini e matite tutta quella sguana. E, fratelli, per poco non fecero squillare le trombe per questo importantissimo martino che veniva a trovare il vostro umile narratore. Ed ecco chi arrivò. E naturalmente non era altri che il ministro degli interni o esterni, vestito all'estremo grido e con la sua ciangotta da distintone. «Flash, flash, plop!» fecero le macchine fotografiche quando lui mi tese la granfia. Io dissi: «Bene, bene, bene, bene, bene! Che stegola, vecchio Soma!» Nessuno azzeccò quello che dicevo, ma qualcuno disse con una ciangotta dura: «Parla con più rispetto, ragazzo, quando ti rivolgi al ministro!» «Berte!» dissi, ringhiando tipo cane. «Gran Berte Straberte, a lui e a te!» «Va bene, va bene», disse molto guizzo quello degli interni e esterni. «Mi parla come a un amico, non è vero, figliolo?» «Io sono amico di tutti», dissi, «tranne che dei miei nemici». «E chi sono i tuoi nemici?» disse il ministro mentre tutti i gazzettieri scribacchiavano da scardinati. «Diccelo, ragazzo!» «Tutti quelli che mi trattano male», dissi, «sono miei nemici». «Beh», disse il ministro interno esterno sedendosi sul letto. Io e il governo di cui sono membro vogliamo che tu ci consideri tuoi amici. Amici, sicuro. Ti abbiamo rimesso in sesto, no? Ti abbiamo riservato il trattamento migliore. Non abbiamo mai voluto il tuo male, ma ci sono alcuni che l'hanno fatto e continuano a farlo. Credo tu sappia chi sono. Tutti quelli che mi trattano male, dissi, sono miei nemici. Sì, sì, sì, disse. Ci sono degli uomini che volevano servirsi di te, sicuro. Servirsi di te per i loro fini politici. Sarebbero stati lieti, sicuro. Lieti che tu morissi, perché credevano di poterne dare tutta la colpa al governo. Credo che tu sappia chi sono questi uomini. La loro faccia, dissi, non mi è mai piaciuta. E c'è un uomo, disse l'interno esterno, chiamato F. Alexander, uno scrittore sovversivo, che voleva assolutamente il tuo sangue. Moriva dalla voglia di piantarti un coltello nel cuore. Ma adesso non c'è più pericolo. L'abbiamo messo al sicuro. Pareva un vecchio soma, dissi. Come una madre è stato per me. Ha scoperto che gli avevi fatto del male. O perlomeno, disse il Min molto molto guizzo, ha creduto che gli avessi fatto del male. Si è messo questa idea in testa che tu fossi responsabile della morte di una persona che gli era cara. Qualcuno gliel'ha detto, cioè, dissi. Se l'era messo in testa, disse il Min, era diventato pericoloso. Così l'abbiamo messo al sicuro per proteggerlo da se stesso. E anche, disse, per proteggere te. Gentili, dissi, proprio gentili. Quando uscirai di qui, disse il Min, non avrai problemi. Penseremo noi a tutto. Un buon lavoro con un buon salario, perché tu ci stai aiutando. Io, dissi, ci si aiuta sempre tra amici, non è vero? E poi mi prese la granfia e un martino scricciò. Sorridi! E io senza pensarci feci un sorriso da scardinato e poi flash, flash, plop, flash, crack. Presero un sacco di foto di me e l'interno esterno insieme come due soma. Bravo ragazzo, disse il gran Poldo. Bravissimo ragazzo. E adesso, guarda, eccoti un regalo. Ciò che mi portarono dentro, fratelli, era una grande scatola lucida e io l'occhiai subito di che trucca si trattava. Era uno stereo. Lo misero giù accanto al letto, l'aprirono e qualcuno infilò la spina nella presa di corrente. «Che cosa vuoi?» domandò un martino con le traveglie sul naso e le braccia cariche di belle buste lucide piene di musica. «Mozart? Beethoven? Schoenberg? Karl Orff?» «La nona», dissi. «La gloriosa nona!» «E la nona fu, oh fratelli!» Tutti cominciarono a uscire zitti e cheti mentre io stavo lì a snicchiare quella bellissima musica coi fari chiusi. Il Min disse «Bravo, bravo ragazzo», battendomi la granfia sulla mestola e poi pistonò via. Rimase soltanto un martino che disse «Una firma qui per piacere». Io aprii un momento i fari per firmare senza sapere cosa stavo firmando e anche fregandomene di saperlo, oh fratelli. Poi fui lasciato solo con la gloriosa nona di Ludwig van. Oh, era magnificenza e gnam gnam gnam. Quando arrivò lo scherzo, l'occhiai molto chiaramente me stesso che correvo e correvo su patte tipo luminose e misteriose, tagliando l'intera biffa del mondo scricciante con la mia lisca tagliagola. E l'adagio e l'ultimo movimento cantato dovevano ancora venire. Ero guarito davvero. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.